Intanto ringrazio veramente Antonio per essere qui con noi. Antonio Pavolini lo vado a presentare, anche se secondo me molti di voi lo conoscono bene. È uno dei primi podcaster e blogger italiani. È impegnato da diversi anni nell'esplorazione dei nuovi trend e modelli di business della transizione digitale, come vi spiegavo prima. È autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche su questi temi, collabora con università ed enti di ricerca internazionali. Nel 2016 ha pubblicato un libro per me grandioso, illuminante, che è Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. E poi è tra gli autori di Connecting Television, la televisione al tempo di internet, di Guerini Associati del 2012, poi vi mando tutte queste cose, ed è tra l'altro, ha scritto uno spettacolo teatrale su Pasolini davvero bello, e anche questo vi segnalerò i link relativi alle pagine, i contenuti che riguardano queste cose, ve lo metto tutto sulla piattaforma perché davvero Antonio è uno di quegli interlocutori tutti da scoprire. Allora io adesso do a lui la parola con l'idea che lui ci fa un'introduzione, ci parla un po' di quello che può, diciamo così, ci fa un po' un quadro delle sue idee sulla questione della crisi e poi facciamo domande e risposte in maniera molto informale e tranquilla come la volta scorsa. Vai Antonio, a te la parola e grazie. Ok, grazie a te per la presentazione, come sempre lusinghiera e per larghi tratti immeritata. E ringrazio naturalmente per l'invito. Bruno Mastroianni mi chiede di fare un focus, diciamo, su che cosa succede nella comunicazione di crisi, in particolare calato nell'attualità che stiamo vivendo, che cosa stiamo imparando di nuovo in questi giorni. E lo faccio volentieri. La prima cosa, diciamo, che credo sia abbastanza chiara agli occhi di tutti è che è completamente cambiato il registro della comunicazione nelle ultime 3 settimane. Nel senso che, come sapete, per far funzionare l'industria, dei media e gli ecosistemi dell'informazione, ormai eravamo arrivati, prima di questa crisi, a un livello di degrado nella missione di informare le persone, dovuto alla necessità di assecondare un modello di business che a sua volta si era sempre più incancrenito verso un unico obiettivo, che era il presidio dell'attenzione. In sostanza, anche l'informazione all'interno dell'industria dei media, doveva e deve soprattutto intrattenere. E quindi non fornire più alle persone, come diciamo, possiamo dire, poteva funzionare fino a tutti gli anni 70, fornire alle persone gli strumenti per capire la realtà, per farsi un'idea su quello che succede, no? L'ultimo esempio roboante di questa informazione di qualità fu lo scandalo del Watergate negli Stati Uniti. E oggi invece, il modello. E ci siamo arrivati per passi successivi, poi magari potremmo anche raccontare questi passi, perché è importante capire come ci siamo arrivati per capire perché adesso siamo in questa melma. Adesso si tratta soprattutto non di fornire strumenti alle persone per capire le cose, ma presidiare l'attenzione delle persone. E questo succede perché l'attenzione è diventata l'unica risorsa scarsa, mentre diciamo. Fino a 20-30 anni fa, potevamo dire che i contenuti fossero una risorsa scarsa, c'erano i giornali che avevano il presidio del racconto e dei contenuti, la televisione e la radio, avevano il presidio dell'infrastruttura della catena distributiva. Insomma, potevamo dire che per l'utente il pluralismo, no? Si diceva che qui sono la risorsa scarsa. Oggi, se ci sono degli allarmi che qualcuno solleva, sono quelli di un troppo pluralismo che poi ha fatto ulteriormente decadere il dibattito, addirittura verso la messa in discussione di principi consolidati come appunto non solo il pluralismo, ma addirittura c'è troppa democrazia, si dice, no? E addirittura viene messo in discussione il concetto del suffragio universale. E tutto questo perché? Perché internet avrebbe inondato le nostre giornate di false notizie, di fake news, avrebbe inondato comunque i nostri linguaggi di ondate di odio e comunque pressappochismo e comunque dilettantismo. Insomma, finché prima di queste cose se ne occupavano, tra virgolette, quelli bravi, non esisteva nessun problema, invece ora siamo siamo immersi in questo caos dove a stento l'industria dei media si autogiustifica nella sua esigenza di fare infotainment semplicemente per giustificare la propria sostenibilità economica. Questa è un po' la narrazione dominante. Mentre in realtà il diciamo processo di degrado, e qui faccio un passo indietro, era partito molto prima di internet. Per esempio i giornali hanno dovuto cominciare a copiare la televisione anche nel modo di fare informazione, all'apparizione delle prime forme di infotainment in televisione, che hanno una storia lunga. Si potrebbe dire che già ci fosse parecchio infotainment ai tempi proprio del Watergate negli Stati Uniti, ma noi abbiamo importato quel modello quando in Italia è partita la televisione commerciale e ha cominciato a dominare anche il discorso pubblico e il discorso informativo. E quindi con la televisione commerciale i giornali hanno sentito una concorrenza paradossalmente molto più grave, molto più forte di quella che subiscono oggi da internet, tant'è che poi la soluzione di quella crisi fu la creazione di conglomerati dove i giornali e le televisioni stavano all'interno di un'unica proprietà, e il passo successivo, diciamo, di degradazione dell'ecosistema fu quando addirittura il conglomerato non era più governato da qualcuno che facesse il mestiere dell'editore, ma da qualcuno che faceva il mestiere della raccolta pubblicitaria. Diciamo che Berlusconi ha avuto già delle ambizioni, ancora delle ambizioni di editore, anche se in un mercato monopolistico, drogato dalla famosa botola da cui uscivano soldi e nessuno gli chiedeva da dove uscissero, ma non è tanto questo il punto. Il punto è che poi il prodotto attuale di quel discorso è Cairo, che non si fa, che è il monopolista della raccolta pubblicitaria in questo momento in Italia, possiamo dirlo, oligopolista insieme a pochi altri soggetti, che non si pone nemmeno il problema di stabilire se lui è uno che di mestiere raccoglie pubblicità o fa l'editore. Perché il suo mestiere è raccogliere pubblicità. Il fatto che questo accada con i media, con l'informazione, è tutto sommato secondario. Se fosse un cartone animato di Walt Disney, per lui è del tutto fungibile. Per questo per lui il concetto di infotainment non è un problema, e non solo. Addirittura per rassicurare il pubblico e la sua azienda, lui dice che va da Fontana, dal direttore del Corriere della Sera, a fare il giornale insieme a lui, come ha fatto in un video che è uscito qualche giorno fa, e questo dovrebbe rassicurare, e invece è una cosa che a chi ha un minimo di media literacy dovrebbe agghiacciare il sangue, perché significa fondamentalmente che non solo l'ecosistema dell'informazione non riesce più a informare, ma si pone il preciso obiettivo di disinformare, e non come poteva accadere negli anni 60-70 per ragioni politiche, per ragioni diciamo di ideologica, no? Sappiamo che insomma tante fake news ai tempi circolavano per ragioni più grandi di noi, mi verrebbe a dire, ma no, semplicemente per accontentare degli inserzionisti, perché l'inserzionista non ha bisogno di persone informate. E poi naturalmente se il mondo dell'informazione si comporta tutto in questo modo ed è comunque l'unico canale per il mondo, per esempio, della politica per arrivare alle persone, ecco che i politici si adeguano e sono perfettamente in quel discorso e in quel meccanismo che fa sì che cosa? Che ogni giorno debba succedere qualcosa di nuovo per rubare l'attenzione, per conquistare l'agenda dell'informazione. Tutto questo ha funzionato perfettamente fino all'inizio della crisi del Covid, dove per differenza ci siamo resi conto del teatrino squallido di cui molti, penso anche voi, insomma, che vi occupate di media, ve l'avete già accorti, ma il punto è che adesso anche il pubblico si rende conto di quanto fosse assurdo un ecosistema dei media dove potevi serenamente, senza che nessuno si chiedesse perché, discutere per 24 ore di un tizio che si faceva ritrarre, di un politico si faceva ritrarre a ballare con una ragazza in bikini in una discoteca sulla spiaggia, e quello dominava completamente la scena. Anzi, quello era il modo per salire sul balcone, per creare il palco, per poi reclamare i famosi pieni poteri. Cioè, per riuscire ad avere quella audience è dovuto arrivare a quel livello di pop richiesto dall'industria, livello che era raggiungibile solo in questo modo, così come in passato, per poter dire certe cose al paese, cose nuove, cose rottamanti, cose dirompenti, bisognava gettarsi un secchiello di ghiaccio in testa e fare l'ice bucket challenge, perché la prima cosa è diventare pop, la prima cosa è diventare una star della giornata. La politica, se vogliamo ancora chiamarla così, a quel punto ha la chiave d'accesso per entrare nel racconto dei media, che sono contenti, dicono che anche questo tizio oggi ci farà vendere bastoncini di pesce, fondamentalmente, e quindi vedete quale prodotto di risulta, quale byproduct finisce nelle nostre teste per sperare di informarci. Tant'è che molte persone, magari un po' dell'ambiente e che lavorano nel mondo dei media, usano internet come via d'uscita, proprio quella internet che tutti i giorni è invece indicata come la causa di tutte le disinformazioni. Il punto è saperla usare. Ecco, per l'industria dei media il punto è evitare che le persone imparino a saperla usare, perché altrimenti si svela in tutta la sua gravità questo teatrino. A meno che non succeda qualcosa prima, per esempio, che si verifichi l'irruzione della realtà nelle case degli italiani, come è successo nel caso del Covid. La notizia ormai è dentro le nostre case, anzi, la notizia ci imprigiona nelle nostre case. E quindi noi non accettiamo nessuna nuova scenetta del teatrino in grado di scalzare la centralità di questo tema. Non lo possiamo accettare, e non lo accetta non solo Bruno Mastroianni o Antonio Paolini o chi si occupa di media, non lo accetta nemmeno la casalinga di Voghera. Perché? Perché lei può uscire di casa solo per andare a fare la spesa al supermercato. E quindi non vuole sapere altro che quando si può uscire, come evitare di prendere il virus, e invece di avere informazioni chiare, coerenti dal mondo, per esempio, della scienza, tutti i giorni si ritrova a vedere scienziati che litigano tra di loro. Non parlo di persone ignoranti, parlo di scienziati che litigano tra di loro. Comunque, sicuramente qualche passo avanti, qualche cambio di passo in questa crisi l'abbiamo visto, perché rendendosi conto per prima l'industria dei media che non poteva inondare di quel tipo di scenette continue le nostre giornate, ha dovuto comunque inventarsi un ruolo di informazione all news che qualche piccolo passo avanti lo ha fatto. A me viene in mente quello che ha fatto per esempio Sky TG24 oggi, che ha cominciato a trasmettere un'ora della sua programmazione tutta da casa, cioè i giornalisti, esattamente come me, ci hanno dietro una libreria o una cucina, ogni tanto passa un bambino di 3 anni col ciuccio, che è una cosa molto tenera e molto bella, che avvicina, fa tornare il mondo delle medie vicino alle persone in questo momento. E questo funziona, ha funzionato anche Radio 3, che ha strutturato le sue principali rubriche con interventi, cioè con piccoli studi radiofonici costruiti ormai con le tecnologie di oggi che lo permettono, nelle case delle persone che prima andavano tutte a Via Asiago, giustamente, no? Ecco. Quindi c'è stata già un'evoluzione negli strumenti. Certo, rimane la centralità della teoria della comunicazione di crisi, che risponde a regole diverse rispetto alla comunicazione normale, e questo a prescindere dall'evoluzione dell'industria dei media. Rispondeva già a regole diverse in epoca analogica, e ancor più a regole diverse con la velocizzazione delle informazioni a seguito della rivoluzione, o come preferisco chiamarla io, transizione digitale. A questo proposito vi vorrei condividere lo schermo, perché ho una breve presentazione che un po' spiega il passaggio fondamentale dalla comunicazione di crisi fino agli primi anni 2000, e poi con l'arrivo di una infrastruttura a due vie, internet, che cambia completamente le regole del gioco. Vediamo se la ritrovo. Ditemi se la state vedendo. La vedete? Sì. Ok. La vediamo. Sì, la vediamo, Antonio. Vai, vai, tranquillo. Benissimo. Bello, perché Bruno che dice sì, la vediamo, sembra Tito Stagno che dice ha toccato. Dunque, è un prezzi, quindi dovreste forse prendere 2 pasticche di travel gum prima che io la faccia partire, anche perché io non so fare i prezzi, e quindi appunto metto a rischio anche un po' le vertigini di chi assiste. Ma naturalmente non l'ho fatta perché mi può essere minimamente utile, ma semplicemente per dare la sensazione di uno strumento più moderno e adeguato alle circostanze. Anzi, io sono pure pre-PowerPoint, dovrei andare in giro con i lucidi trasparenti e i pennarelli, che però sono molto romantici. Dunque, qui provo un po' a raccontare cosa è successo dal 90, diciamo, al 2015. Siamo arrivati un po' per tappe. Possiamo dire che nell'anno Domini 1990 funzionava ancora in un certo modo, esistevano tre soggetti, da un lato le aziende, i brand che dovevano vedersela tutti i giorni con delle questioni importanti che riguardavano questioni cosiddette business critical, quindi per intenderci se il tuo brand è Philip Morris, una questione business critical è cercare di convincere i tuoi interlocutori istituzionali che il fumo passivo quantomeno non fa male, quella era la battaglia degli anni 80, oppure magari le questioni ambientali, le questioni legate alle tariffe, le questioni di trasparenza, tutto quello che oggi viene chiamato in un grosso calderone corporate social responsibility e che rientra in un altro ancora più grande calderone che è la comunicazione di sostenibilità. Come gestivi queste issue con il pubblico? Le gestivi attraverso un ufficio stampa, fondamentalmente, che mediava tra te e le associazioni dei consumatori, gli ambientalisti, insomma tutti quelli che si arrabbiano sono cavoli tuoi, detta proprio in termini semplici. Quindi ti rivolgevi a che cosa? La tua interfaccia, l'ufficio stampa, aveva un'altra interfaccia di mediatori, cioè i media integrati verticalmente, cioè i media che gestiscono anche l'infrastruttura distributiva, la televisione, i giornali, la radio. E in questo modo parlavi agli artisti, alle associazioni dei consumatori e a tutti, quei soggetti istituzionali la cui posizione su questi temi impatta sul tuo business. Io le ho chiamate le corporate constituents. Cosa facevi? Monitoravi i media, i vecchi media, e facevi dei pacchi di rassegne stampa alti così che davi poi all'amministratore delegato, che prendevano poi decisioni, si rendevano conto magari dove un tema cominciava a diventare caldo. Vedete come i tempi sono lunghi, no? Hai un mediatore, ti rivolgi a degli intermediatori che sono i media, hai chi fa la rassegna stampa, chi ascolta e fa il monitoring audio e video, insomma, e poi anche le stesse associazioni erano dei mediatori, il pubblico era comunque lontano. Cosa succede a un certo punto? Ci fa capire drammaticamente questo passaggio. Questa è la più antica delle case study online che tuttora viene citata, quella che riguarda i lucchetti Kryptonite. Kryptonite a un certo punto, produceva lucchetti per biciclette, motociclette, eccetera, aveva praticamente il monopolio di questo business, fu oggetto di una tempesta del tutto nuova. Non erano più le associazioni dei consumatori o gli ambientalisti o comunque dei corpi intermedi a protestare, ma erano direttamente gli utenti, perché c'erano i canali che permettevano agli utenti direttamente di rendere visibili le loro proteste. Proteste perché? Perché i lucchetti erano facilmente apribili, quindi i ladri rubavano le biciclette e le motociclette. La reazione di Kryptonite, che è un'azienda antica, che ha una solida tradizione, fu quella di una normale azienda che ha l'ufficio stampa, la rassegna stampa, ignorarono fondamentalmente il dibattito online, cosa che oggi non succederebbe mai, però vi faccio vedere cosa succede proprio se non vengono prese misure restrittive, mi verrebbe da dire, col linguaggio di Borrelli, no? Si dice, oggi forse salveremmo 30.000 vite. Beh, ai tempi abbiamo salvato, se fossero state prese misure restrittive, avremmo evitato questo picco clamoroso che vedete a un certo punto. 1.800.000 persone sono coinvolte nella discussione sui lucchetti facilmente craccabili, e con una perdita di 10 milioni di dollari per il business. Lo vedete sulla destra, io ce l'ho un po' coperto dalle vostre facce, insomma, lo ricordo, ci fu una perdita netta del profitto, ma soprattutto una perdita di reputazione, di credibilità, tant'è che da allora tanti altri produttori di lucchetti hanno invaso il mercato. La principale è la Ballock, l'antifurto con le palle, che tutti ben conoscete. Chiaramente questa fu la prima di una lunga serie di lezioni, ce ne furono tante: Carrefour, la cassiera che se la prende con il cliente disabile, c'è il caso di Patrizia Pepe, ce ne furono tante di storie di crisi, condotte ancora con strumenti vecchi che produssero sconfitte, finché non ci si rese conto che alla fine eravamo entrati in un altro mondo, l'open media ecosystem, dove Le questioni sono sempre quelle, sono sempre legate al marchio. Esiste ancora l'ufficio stampa, ma soprattutto esiste una infrastruttura a due vie che permette alle persone direttamente di entrare in contatto con l'azienda. Scusate, non si vede bene, non c'è una vista che permette di vedere queste cose, ecco il momento del mal di testa che temevo. Si vede. Insomma, era fondamentalmente per dire... E adesso, vedete, le freccette gialle è collegato direttamente, non c'è più il corpo intermedio, né dentro l'azienda, né addirittura nei media stessi che si rivolgono direttamente alle persone. Questo è il punto. Allora, detto questo, il monitoring deve cominciare a diventare un monitoring dei social media. Qui nasce il social media monitoring, che però ha due approcci tuttora ideologicamente molto diversi. Uno basato sulla tecnologia, sugli algoritmi, e c'è una pletora spaventosa di aziende che continuano, per esempio, anche a telefonare nel mio ufficio, io mi occupo di comunicazione digitale in team, proponendomi presentazioni di piattaforme altisonanti, di solito sono collegate 20 persone che parlano tutte un inglese diverso, quasi sempre c'è quello che conduce la presentazione, un pakistano incomprensibile, ma al di là di questo, le presentazioni sono fantastiche, fantasmagoriche dal punto di vista tecnologico, ma non risolvono il problema che alla fine è un algoritmo a fare il monitoring, e quindi anche la famosa sentiment analysis è nelle mani di un soggetto ancora non abbastanza intelligente per sviluppare il talento strategico, dice qua Jason Falls, che è un esperto di queste cose, il talento strategico necessario per fronteggiare una crisi. Lo stesso talento strategico che era necessario per fronteggiare una crisi negli anni Ottanta. Non è, questa parte di skill non cambia, cioè non è che noi stiamo buttando a mare le regole vecchie della comunicazione di crisi, il contingency plan, il question and answer, il position statement, tutte queste cose. Il crisis training, quando tu fai finta che esploda uno stabilimento petrolchimico e porti in elicottero l'amministratore delegato lì per vedere se è pronto, poi quando arriva lì tu gli fanno sei su candid camera, perché per fortuna lo stabilimento non è esploso, però c'erano dei finti ambientalisti che protestavano, eccetera. Ecco, tutto questo per far capire l'esigenza, l'urgenza, no, del momento della crisi. Questo non cambia. Far capire all'azienda quanto la crisi è fondamentale e può distruggere il tuo business, non cambia. E soprattutto non cambia una cosa. Se siete consulenti, se avete un'agenzia, se lavorate in un'agenzia, le crisi sono quelle che ti fanno vincere il cliente anche su tutti gli altri ambiti della comunicazione. Si entra con le crisi e poi ci si allarga, si fa upselling, così si dice, no? E c'è un altro approccio che pian piano si sta integrando meglio con questi talenti antichi di cui c'è ancora bisogno, che è l'approccio strettamente, diciamo, potremmo definirlo ibrido, cioè sì, ancora l'algoritmo ti serve, ma non ti serve in assoluto. Ti serve se integrato con la capacità umana di capire quello che sta succedendo in tempo reale e altrettanto velocemente per rispondere nel nuovo contesto. E qui c'è una frase di un esperto di monitoring social, che è Gianandrea Facchini, che ha fondato una società che si chiama Buzz Detector. Ecco, questa è una società che adotta l'approccio, diciamo, ibrido. Una prima cosa che vi dico per farvi capire anche dove si investono i soldi in questo tipo di gestione delle crisi è che il buon Gianandrea lavora con 50 traduttori di tutto il mondo, perché spesso lavora per multinazionali. E quindi anche ascoltare in modo intelligente significa capire umanamente che cosa le persone dicono, cosa che ancora un algoritmo non è in grado di fare. Questo era per darvi un po' un quadro di questo passaggio. Io per il momento mi fermo qua, perché so che Bruno vuole anche fare una cosa un po' interattiva, quindi smetto di condividere lo schermo. È buffo, perché io per tutto questo tempo ho gesticolato senza rendermi conto che era inutile, perché appunto... Vedevamo sia te che lo schermo. Okay. Gesticolato bene, in modo a me piace gesticolare, lo voglio dire, è una cosa che rivendico. Beh, un po' come gli americani. Basta, tu sei la tua slide, questa è il mio, cioè, la slide migliore siamo noi. E guarda, intanto grazie, veramente questa panoramica è stata bella e mi sembra interessante, credo che conveniate anche tutti voi sul fatto che ha arricchito e ha ben sistemato ancora di più concetti che ci eravamo un po' detti, ma non eravamo andati su questo punto di interpretazione, quindi credo che sia stato veramente un contributo notevole. Allora, apriamo le danze, cioè se avete domande, idee, curiosità, fatevi avanti. Se c'è qualcuno che vuole... Ecco. Vedo Tina Fasulo che ha attivato l'audio, giusto? Ecco. Allora, Lorenzo Bagnoli che ha alzato la mano. Prego. Tina, lei voleva intervenire? Mi si era solo disconnesso. Ah, ok, perfetto. Quindi vai, Lorenzo, prego, dica. Qualcosa perché mi si è spento PC impromente. No problem. Lorenzo, prego. Sì, buonasera intanto. No, la mia domanda era più che altro inerente alla prima parte del... Alla parte iniziale dove si parlava appunto dei giornali e dell'informazione, perché apro un attimino un piccolo cioè faccio una domanda inerente a quella parte lì, insomma, praticamente sto leggendo un libro in questi giorni che è molto famoso, si chiama Illuminismo Adesso di Steven Pinker, che è uno psicologo di Harvard che insomma parla insomma del progresso e di tutte, apre un capitolo sull'informazione, ok? Paragonando l'informazione al sistema di entropia in principio della fisica, no? Per cui si tende più al disordine che non all'ordine. Di conseguenza, per quanto riguarda l'informazione, innanzitutto è sempre più probabile, cioè è statisticamente più possibile che accadano cose negative rispetto alle cose positive. E di conseguenza ciò che accade, ciò che accade, cioè il negativo accade, perciò si racconta, il positivo tende a non accadere, a essere un dato che non è che improvvisamente qualcosa di positivo accade, no, invece il negativo tende ad accadere, quindi si tende sempre a raccontare nella narrazione giornalistica sempre gli avvenimenti negativi, e questo porta le persone a avere un atteggiamento di sfiducia verso a farsi pensieri fatalisti, disfattisti, a essere scettici sul progresso. Volevo sapere se il mondo del giornalismo, dei media, sa questa cosa, è a conoscenza di questa cosa, e se ha c'è un'intenzione comunque un po' a ribaltare un po' questo principio. Allora, grazie per la domanda. Non so, Bruno, volevi dire qualcosa? No, vai. Allora, naturalmente i media conoscono perfettamente il problema, essendo parte del problema, mi verrebbe da dire. Aggiungo anche che lo sanno, la prova del fatto di sapere di essere parte del problema nasce dal fatto che periodicamente qualche giornale, televisione si inventa anche la foglia di fico, la rubrica delle buone notizie, il contenitore consolante, l'approccio edificante, eccetera, che serve un po' appunto come foglia di fico, ma soprattutto serve per differenza, per marcare una differenza rispetto a quella che è la regola. Non si preoccupano del fatto che quella che dici tu sia la regola, non se ne preoccupano, semplicemente perché per loro esiste tutti i giorni un unico fatto positivo di riferimento, e cioè per i giornali le vendite ormai più degli spazi pubblicitari che le vendite della copia o dell'abbonamento online, per le televisioni l'audience, e per tutta la parte diciamo di engagement sulle piattaforme nuove appunto la reach e l'engagement, che sono dei detti così ancora tuttora, se vai nelle aziende e dici reach e engagement sembra che tu sia uno moderno. E questo è assolutamente drammatico, perché altro non sono che la trasposizione nei nuovi mondi dei vecchi modelli, che partono comunque dal presupposto che tu devi canalizzare una massa all'interno di un luogo chiuso che tu puoi controllare. Tutto quello che naturalmente invece potrebbe succedere su internet fuori da quella conversazione, ma ancora di più fuori da quella piattaforma, off the platform, come mi piace dire, è perdente, quella è una cattiva notizia, ok? Quindi proviamo a immaginare, è lo stesso riflesso per cui qualsiasi programmista televisivo, produttore anche di programmi di informazione, quando vede qualcosa di appena più sofisticato, scuote la testa e dice non funziona, La stessa cosa succede sulle piattaforme di social media. Se tu non parli del tema del giorno, e il tema del giorno è deciso da altri, ed è pop, deve essere pop, e quindi si parte dal principio. Ecco, facciamo un esempio. Io ho una grossa un esempio calato sul Covid. Nella giornata di l'altro ieri, quindi non ieri, l'altro ieri, sono successe tante cose sul Covid molto importanti. Per esempio, gli Stati Uniti sono diventati il paese con più contagi. Sappiamo che il numero dei contagi è ridicolo, fittizio, però diciamo almeno nei dati che abbiamo, comunque, insomma, mi sembrava un importante sorpasso. Negli Stati Uniti ci sono 6 milioni di richieste per il sussidio di disoccupazione, perché loro non vanno troppo per il sottile, e quindi appunto solo per la prospettiva di non lavorare per 2 mesi hanno mandato a casa già 6 milioni di persone in questi pochi giorni. Non voglio pensare quanti saranno tra una settimana. Queste sono notizie che ti fanno anche capire, ti fanno ragionare. Tu italiano stai comunque in un sistema diverso, dove ci saranno tanti problemi, ma non sarà così traumatico, ok? Anche se hai un'economia molto più debole, anche se hai un debito molto più alto, eccetera. Magari sarà traumatico strategicamente nei prossimi anni, ma non è una roba che tu un giorno arriva il Covid e il giorno dopo hai gli scatoloni per strada, ok? Hai il tempo quantomeno per pensare. Allora, queste sono notizie. Di che cosa hanno parlato l'altro ieri tutti i giornali, tutti i telegiornali e a ruota tutti i social media? Hanno parlato della possibilità di uscire con i bambini nelle prossimità della propria abitazione. E non era una notizia, e l'ha spiegato poi anche il Premier intervenendo la sera. Pensate che il Premier ha dovuto alla fine intervenire, secondo me non avrebbe neanche parlato perché non ha detto niente di epocale. È dovuto intervenire la sera proprio per chiarire soprattutto quel punto. Ciò che non era cambiato nulla e che quindi non c'era nessuna notizia. Io intorno alle 8:30, quando poi Conte aveva finito di parlare, ho chiamato un commissario della GCOM, di cui sono amico, molto bravo, che si chiama Antonio Nicita, che già stava preparando un dossier su tutta la disinformazione che era stata fatta in questi giorni, e ha parlato delle scenate di, perdonatemi, da Barbara D'Urso, Giletti, tutte queste cose anche un po' più spettacolari, eccetera, che voi dite, ah, vabbè, ma tanto quella non è informazione e intrattenimento. Sì, però attenzione, quando parliamo di sussidi all'informazione rientra anche quello, punto primo. E secondo, quello spesso è anche il servizio pubblico. Adesso, mi dispiace, c'è Bruno presente, ma Bruno per primo condivide questo approccio, no? Questo giudizio su un pezzo, sottolineo, un pezzo dell'informazione pubblica. Anzi, quello che ci salva è il pezzo spesso funzionante dell'informazione pubblica rispetto all'informazione privata. Chiusa parentesi e messa la pezza nei confronti di Bruno. Però, insomma, tutto questo per dire che cosa? Per dire che non il fatto positivo all'interno di un'industria, tra l'altro lo è legittimamente un fatto positivo, perché la missione di quell'industria è fare soldi, è il fatto positivo non è la notizia positiva o la notizia negativa. Il fatto positivo è audience engagement, reach. Ok, queste sono le cose che contano. E scusate, mi sono perso. Va bene, guarda, mi fermo qua perché stavo parlando anche troppo. No, no, ma è interessante. Credo che tu abbia anche risposto in gran parte. Quindi c'era Lucrezia Chirelli che aveva alzato la mano, giusto? Lucrezia? Conferma? Ah, sì, sì, sì, ecco. Perché mi aveva detto prima di ripetere la stessa domanda al signor Pavolini, quella che gli avevo posto a lei della disinformazione. Esatto, volevo farlo anch'io, però la faccia lei, sì, sì. Allora, io ho notato, dopo aver praticamente l'altra settimana fatto lezione su comunicazione di crisi, che in questo momento il governo non sta gestendo in team le comunicazioni che vengono date alle persone, in quanto 2 giorni fa, come ha detto lei, Conte ha dovuto fare una conferenza stampa dove prolungava la quarantena obbligatoria per tutti, che poi è zona rossa, non è quarantena, è certo. Qualche ora prima. Esatto, la mattina l'aveva detto Speranza in Parlamento, la sera l'ha detto Conte, che ha dovuto, secondo me, fare la conferenza stampa perché era stato anticipato. E oggi anche se poi è arrivata la smentita, mi è stato detto, però Borelli ha detto che dobbiamo scordarci di contestuali parole, scordatevi il primo maggio, perché andremo alla fase 2 se tutto continua così a metà maggio. Quindi le informazioni quali sono? In più, una mia amica, che prima non ho detto, lavora proprio come infermiera a Cisanello, ha 22 anni questa ragazza. Questa ragazza lavora a Pisa, all'ospedale di Pisa, e le informazioni che arrivano dall'ospedale di Pisa sono veramente gravi, in quanto anche quando è stato messo quel post famoso che è diventato, penso, virale, delle 6 ore senza pazienti al pronto soccorso Covid, non era totalmente vero, perché non sono state 6 ore, è stato ricondiviso oltretutto... Mi sentite? Scusate. Esattamente. È stato praticamente oltretutto ricondiviso da un esponente parlamentare o da comunque un esponente politico, che è una cosa sbagliatissima, perché la sera stessa ne sono morti 4 al pronto soccorso. Quindi allora, non si mettono informazioni che non sono reali. Lucrezia, addirittura i medici di Pisa... Stai parlando giustamente di presidio dell'attenzione. Queste persone vincono, stanno vincendo, anticipando quello che dice il Premier, che invece ha i tempi istituzionali, quindi è un perdente perché deve avere i tempi istituzionali, possono far circolare la bozza prima e quindi hanno vinto loro e quindi lui ha fatto la figura di quello che arriva tardi, eccetera. Cioè, è però tutto, non è incapacità, è volontà di entrare prima e anticipare gli altri e vincere in quel momento, perché l'unica cosa che conta è il qui e l'ora, e la responsabilità della comunicazione unica istituzionale che dici tu semplicemente non è considerato un problema, perché non serve, non viene percepito come uno strumento di consenso politico. Beh, se posso intervenire, voglio far notare a tutti i partecipanti che questo è il motivo per cui noi abbiamo la comunicazione di crisi dentro il modulo dell'etica della comunicazione, perché non basta mai soltanto l'aspetto tecnico di gestione di una crisi di per sé, cioè l'abilità con cui tu comunichi, gestisci, ma ci vuole quel salto in più di anche responsabilità, come sta dicendo Antonio, che è un elemento di etica della comunicazione. Cioè, come vedete, non è che c'è inconsapevolezza totale o incapacità, addirittura c'è capacità usata per un qui e ora irresponsabile. Quindi questo teniamolo a mente, perché è questo il motivo per cui noi affrontiamo comunicazione di crisi all'interno dell'etica della comunicazione. Volevo fare solo questo. Lucrezia voleva finire il ragionamento. Sì. Lucrezia, vai. E secondo me questo però può creare dei disagi proprio a livello sociale, in quanto le persone, quando il 14, il 12, mettiamo il 12 per Pasqua, rifarà una conferenza stampa dove ridirà altri 10 giorni, poi dopo 10 giorni altri 10. Faccio una domanda a chi comunque se ne intende. Non conviene dire tutta la verità subito per evitare disagi sociali nel posteriore? Perché secondo me una persona a sentirsi dire le cose distillate, soprattutto nel momento in cui si sente notizie positive sui guariti, sui meno contagi, però nello stesso momento non siate chiari in quello che sta succedendo. Quindi questo non può portare a posteriori a, ora uso una parola molto forte, a una rivolta magari, a portare proprio, anche non finita la quarantena, la gente in strada e quindi a fare partire il contagio dall'inizio? Grazie Lucrezia. Antonio, aggiungo a quello che sta dicendo Lucrezia un elemento che voglio domandarti, perché ci tengo, l'abbiamo parlato prima, ma mi chiedo io, non sarà che il problema, oltre che informativo e di comunicazione, cioè il fatto di dire non sarebbe meglio comunicare tutto a tutti subito in maniera trasparente, non è che è legato anche a una mancanza di gestione? Cioè, io la domanda che mi pongo è, c'è davvero una strategia di risoluzione della crisi o c'è soprattutto una strategia di rimessa? Cioè di risposta, chiaramente l'emergenza, gli ospedali, la rianimazione, ma se uno facesse la domanda a bruciapelo ma qual è la strategia di attacco verso il coronavirus? Io ho la sensazione che non ci sarebbe la risposta. La premessa... No, scusate. Cioè, consapevolezza di quello che sta succedendo e di quello che si sta facendo e di come si fa comunicazione è quello che io voglio capire, perché mi sembra assurdo che il Presidente del Consiglio, il Presidente, e quello della salute non sappiano come fare una comunicazione di crisi in un momento che è veramente delicato. È questo che io mi domando, è incompetenza o è volontà? Bene, sentiamo allora, come se la cava. Mi vorrebbe da dire è blend of, nel senso che la premessa che tu fai, no? La premessa al problema che tu sottolinei, cioè la comunicazione responsabile, è per riuscire a fare la comunicazione responsabile di crisi bisogna che la comunicazione arrivi da un solo soggetto certificato, no? Perché deve con il suo segnale sconfiggere il rumore che ti aggredisce intorno tutto il tempo. E questo non c'è, questo Conte l'ha capito perfettamente, che non sarebbe stato in condizione di fare una comunicazione positiva di attacco, responsabile, eccetera, nel momento preciso in cui la bozza del decreto che aveva studiato insieme al comitato scientifico era circolata e i giornalisti non hanno, pur messi alle strette, tutti insieme come un solo uomo, nessuno ha rivelato in che modo sono venuti a conoscenza di questa bozza. Tu potresti dirmi, ah va bene, ma il giornalista deve proteggere la fonte. Questo può valere per il Watergate, dove la fonte è debole. In questo caso, come dire, non si trattava di proteggere, diciamo, la possibilità di avere altre informazioni scottanti su uno scandalo in corso. No, si trattava appunto per il giornalista di rendersi responsabile di una comunicazione del governo responsabile. Ma il giornalista non voleva questo, il giornalista voleva vincere nel rumore. Ok? Se il giornalista e tutti i giornalisti insieme sanno che la loro poltrona, la loro pensione ci arriveranno grazie al rumore, nessuno ha posto minimamente un problema etico del giornalista. Anzi, tutti i giornalisti, come un solo uomo, hanno difeso l'indipendenza del giornalismo. Perché? Perché metti le mani sulle bozze e quindi hai la notizia e tu hai il dovere di dare la notizia. Vi rendete conto? In quel momento Conte ha capito benissimo che su quella partita lui era perdente in partenza, avrebbe dovuto giocare una strategia di rimessa. E infatti tutte le mosse successive di Conte, rivolgersi per esempio non dalla sala stampa, qualche volta agli italiani direttamente dal suo canale Facebook, sono già, diciamo, l'ammissione della sconfitta sotto questo profilo. Senza contare poi l'altro elemento irresponsabile di quando un premier, e non ha cominciato Conte, ha cominciato Renzi e anche Macron, per rivolgersi al pubblico via Facebook, cosa che teoricamente puoi anche fare, perché poi il feed va anche sui telegiornali, però non usi l'account tuo personale, usi quello dell'istituzione, della presidenza del Consiglio. Ma vi faccio una domanda, secondo voi perché Renzi, Macron e ora Conte hanno usato l'account personale e non quello della presidenza del Consiglio? La risposta è tristissima e banalissima. Qualcuno ha la risposta? Qualcuno ti lancia? Come? Credibilità? Questa è un'ipotesi. Qualcun altro? Per aumentare il numero dei propri seguaci politici. Questa è la seconda parte della risposta, quindi per metà ci ha indovinato, nel senso che uno che arriva ed è un privato cittadino, da quel momento in poi si porta dietro tutti i follower di quando è stato premier, quindi parliamo di milioni, quindi sta capitalizzando, diciamo, potremmo dire che è interesse privato in atto d'ufficio, ok? Ma c'è un altro punto: quando tu entri e sei premier e usi il tuo account personale, ti porti tutta la tua fan base precedente a critica. Quindi ti sei portato tutta la tua fanbase a critica sull'account che in quel momento diventa l'account del premier, e poi dopo, quando te ne andrai e non sarai più premier, ci avrai comunque tutti i follower di quando eri il grande premier. È triste, ma è così. A proposito di comunicazione irresponsabile. Bene, allora, siccome noi, proprio perché siamo comunicatori di crisi, ci teniamo alla puntualità, e sono esattamente le 18:00 sul mio orologio, che è un orologio nucleare, io ringrazio tantissimo Antonio Paolini, che credo che ci abbia dato davvero degli spunti interessanti, e mi farò dare il riferimento per le slide, diciamo, per quello schema veramente interessante, e vi metto anche riferimento al suo libro Oltre il rumore, che è davvero da leggere, e magari anche a qualche altro contenuto che Antonio, se ci vuole segnalare, noi siamo contenti, perché poi nei giorni in cui non ci sono lezioni ci andiamo a leggere cose, a vederle, così poi ne discutiamo anche nella prossima lezione. Io ringrazio tutti, specialmente Antonio, per questo intervento. Grazie a voi. E niente, noi ci vediamo venerdì prossimo.